Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 427, nella quale parleremo dei tragici risultati di quella gente che si è data all'ippica, di elefanti allo sbando, di quello che sognano i tori e del sentimento per gli animali. Speriamo di avervi incuriositi. Per la fama ammazzerebbe pure la prole. La corrida si crede l'Ercole, beh, molli la spada e mi prendo a sventole. Matador, rifate mute, vole, ma stavolta sono io che batto te. Olé! Matador, te la prendi con me, ma stavolta sono io che prendo te. Non c'è più via d'uscita, è finita, amico, devi perdere. Rifonderà la spada perché è il tuo sangue quello nella polvere. Senti i paganti sugli spazi. Dedichiamo questa puntata a Polveroso, cavallo montato dall'argentino Martin Ballesteros, che il 7 aprile è stato abbattuto dopo un brutto incidente occorso durante una sessione di allenamento in vista del Palio di Legnano, che si correrà l'ultima domenica di maggio. Durante la seconda delle 8 corse previste, un cavallo ha avuto un cedimento alle zampe anteriori. I due cavalli dietro di lui si sono trovati di fronte l'animale e il fantino caduti e, non essendo in grado di evitarli, sono stati coinvolti in un terribile incidente a catena. I due fantini sono stati soccorsi e portati in ospedale in ambulanza, nessuno dei due è in pericolo di vita, ma la notizia riguardante il cavallo è stata data con 2 giorni di ritardo e con le seguenti parole: dopo essere caduto ha riportato conseguenze tanto gravi da indurre i veterinari ad abbatterlo per evitargli ulteriori inutili sofferenze. La trasparenza e la tempestività non contraddistinguono il mondo dell'ippica quando si tratta di comunicare le condizioni dei cavalli infortunati. Non un veterinario super partes che possa refertare, non un filmato che mostri come viene soppresso il cavallo, sempre grande vaghezza e opacità. L'ambiente ippico fa scudo e sorvola sui danni che produce. L'associazione animalista 100% Animalisti ipotizza che il cavallo sia stato abbattuto non per una zampa rotta, ma per la rottura della colonna vertebrale. In un comunicato sottolinea che le morti dei cavalli nell'ippica, in particolare nei pali, non possono essere chiamate incidenti, in quanto vengono create le condizioni perché avvengano tali disgrazie. I pali, sempre secondo 100% Animalisti, sono manifestazioni inutili, obsolete, fuori del tempo, mantenute solo per dar lustro a qualche politicante locale e attirare qualche turista, per non parlare delle scommesse clandestine che ci girano intorno. Sono cose che possono succedere, proprio come correre in pista con le moto o anche in bicicletta. Queste sono le dichiarazioni rilasciate da illustri rappresentanti del mondo ippico. A queste dichiarazioni replica l'associazione LAV con un comunicato che denuncia l'ennesima vittima di un mondo nel quale i cavalli non sono altro che uno strumento di lavoro, sacrificabili agli interessi umani, da usare finché producono reddito e assicurano alte prestazioni sportive. La vita di questo cavallo, continua il comunicato stampa della LAV, pesa sulle coscienze di tutti, sulle amministrazioni comunali che continuano a far svolgere queste manifestazioni, sui fantini che partecipano per i premi in denaro e su un pubblico che non è assolutamente dalla parte dei cavalli e che andrà a vedere il Palio di Legnano anche quest'anno, nonostante in passato questo palio abbia visto abbattere e morire il cavallo Balosso senza rendersi conto di quello che c'è dietro a queste manifestazioni. La seconda giornata di corse di addestramento si svolgerà domenica 22 aprile sulla stessa pista. Un elefante di cui non ci è noto il nome è morto e molti altri elefanti sono rimasti feriti in modo non grave lungo un'autostrada in Spagna, dopo che il rimorchio di un circo si è capovolto mentre affrontava una curva. La polizia ha dovuto chiudere la A30 in località Pozzo, vicino ad Albacete, nella zona sud-est di Madrid, dopo il drammatico incidente. Alcuni automobilisti hanno filmato gli animali feriti e sanguinanti che brucavano l'erba ai lati della strada. E il corpo di un elefante morto, riverso su un lato della strada, era visibile in queste immagini. Una gru è intervenuta per rimuovere il corpo del defunto e l'immagine di quell'enorme corpo sospeso è di quelle che non si dimenticano facilmente. Alla sua triste vita, ancor più che alla sua tragica fine, va il nostro pensiero. Ancora elefanti, stavolta siamo in Italia, a Badalasco di Fara, Gera d'Adda, nella bassa bergamasca. Un elefante del circo insediato nella zona ha tentato la fuga dalla struttura per andare a brucare l'erba di un'aiuola spartitraffico nelle vicinanze. Una fuga verso la libertà durata lo spazio di pochi minuti, visto che il grosso pachiderma è stato immediatamente ripreso dai suoi proprietari, se vogliamo vedere la vicenda da un punto di vista antropocentrico, oppure possiamo dire dai suoi persecutori, se la stessa vicenda la guardiamo dal punto di vista dell'elefante stesso. Pare che l'animale, una femmina di circa 30 anni, abbia inoltre urtato un'automobile mentre stava attraversando la strada 184 bis. I media riportavano la seguente frase: fortunatamente senza arrecare alcun danno al conducente. Di eventuali ferite riportate da questa femmina di elefante, comunque, non avremo mai notizia. Avrete capito che non ci piacciono i circhi e non ci piacciono nemmeno le corride. Basterebbe provare a guardare il mondo con lo sguardo di un toro per cogliere tutta la loro crudeltà. Per praticare questa nuova prospettiva, la nostra più giovane redattrice, Agata, ci propone la lettura del libro La storia del toro Ferdinando, che ha ispirato il film di animazione dello scorso inverno, Ferdinand. And you cheer, hooray, hooray, the bullfighter. Molti bambini lo conosceranno per il celebre corto prodotto nel 1938 da Walt Disney e poi rielaborato con alcune varianti e proposto sul grande schermo in un nuovo film d'animazione nel 2017. Ma la storia del toro Ferdinando è prima di tutto un libro di lontana memoria. la cui pubblicazione originale risale ben al 1936, pochi mesi prima dell'inizio della guerra civile spagnola. Una data non casuale, perché il racconto del toro che alla violenza della corrida contrappone la sua passione per i fiori è una metafora pacifista nemmeno troppo velata. Un messaggio chiaro che già all'epoca scatenò l'ira del dittatore Franco che proibì la diffusione del libro nel paese e che fu persino messo a rogo da Hitler, per poi essere in seguito stampato e distribuito ai bambini tedeschi come gesto simbolico da parte delle forze alleate. Non solo, pare che fosse tra i preferiti da Gandhi e che i suoi autori siano stati più volte candidati al Nobel per la pace. Resilienza, forse ancora più che resistenza quella di Ferdinando, esprime al tempo stesso una condanna forte alla follia della corrida, ma anche un messaggio di opposizione pacifica. Lui, un toro un po' diverso dai suoi compagni, che alle battaglie a suon di testate preferiva la contemplazione dei fiori all'ombra di una quercia. En las dehesas de Andalucía vivía un ternerito que se llamaba Perché non vai a correre e a giocare con gli altri torelli? Preferisco stare seduto qui a sentire il profumo dei fiori. Gli altri tori che erano cresciuti con lui negli stessi pascoli giocavano e lottavano tutto il giorno. Il loro grande sogno era quello di essere scelti per combattere alle corride nell'arena di Madrid. Ma non Ferdinando. A lui piaceva sempre restarsene tranquillo sotto la vecchia quercia a sentire il profumo dei fiori. Un giorno, cinque uomini con in testa dei buffi cappelli vennero a prendere il toro più grosso, più veloce, più forte per farlo combattere nell'arena di Madrid. Tutti gli altri tori si fecero avanti sbuffando, saltando, scalciando, facendo di tutto per mettersi in mostra ed essere scelti per la corrida. Ferdinando sapeva che non l'avrebbero scelto, ma non gli importava e andò a sedersi come sempre sotto la sua vecchia quercia. Ma non fece caso a dove si sedeva e invece che sulla soffice erba si sdraiò su un nido d'api. Se tu fossi un'ape e un toro ti si sedesse sopra, che cosa faresti? Lo pungeresti. Ai, che male! Ferdinando si rizzò in piedi e sbuffando si mise a correre per il prato scalciando e dando testate a destra e a manca come impazzito. Era lui il toro più forte e feroce, quello che cercavano per le corride di Madrid. Nell'arena iniziò la parata. Per primi sfilarono i banderilleros, con aste appuntite e ornate di nastri colorati, per punzecchiare il toro e farlo infuriare. Poi fu la volta dei picadores, in sella a macilenti cavalli armati di lunghe lance, per farlo infuriare ancora di più. E poi arrivò il torero, il più fiero di tutti, che si pavoneggiò davanti alle dame e fece un grande inchino. Aveva una cappa rossa e una spada per dare il colpo di grazia al toro. Infine arrivò il toro. E sapete chi era? Ferdinando! L'avevano battezzato il feroce Ferdinando. Ferdinando corse al centro dell'arena e tutti urlarono e applaudirono, convinti che si sarebbe battuto con coraggio, sbuffando, scalciando e dando cornate. Ma non fu così. Quando giunse al centro dell'arena, Ferdinando vide i fiori nei capelli delle dame e si sedette ad annusare il profumo. I banderilleros erano furibondi, i picadores disperati e il torero era così fuori di sé che pianse perché non poteva sfoggiare il suo coraggio con la cappa e la spada. Così dovettero riportare Ferdinando a casa. E per quanto ne so, lui è ancora seduto lì, sotto la sua vecchia quercia, ad annusare estasiato il profumo dei fiori. Andalusia, je me souviens les prairies bordées de cactus. Minus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce Minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? La storia del toro Ferdinando, scritto da Munro Leaf e illustrato da Robert Lawson, traduzione di Beatrice Masini, a partire dai 5 anni. Fabbri Editori, 16 euro. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi. Ils ont eu... Molta della musica che ascoltate in questa puntata è dedicata ai tori. La playlist completa dei brani che si sentono tra un servizio e quell'altro la potete spulciare andando su restiamoanimali.it. L'attenzione la pongo più che su un brano, sulla copertina e sul nome del gruppo. Si chiamano San Fermín, come il posto spagnolo dove fanno quella specie di corrida, ed è un gruppo americano capitanato da Ellis Ludwig Leone, che in copertina è ritratto un toro, nell'album successivo hanno messo un coniglio. Non hanno velleità antispeciste, almeno da quello che ho potuto carpire in rete. Nell'album troviamo anche una canzone che si chiama Torero, ma non ha nulla a che vedere con i tori, con questa crudele tradizione spagnola. Diciamo che Ellis Ludwig Leone ama l'aspetto mediterraneo orientaleggiante di quella che è un'Europa fatta di tradizioni. Da quest'album di debutto, che si chiamava appunto San Fermín, ascoltiamo un brano particolarmente suadente, Renaissance, e vive i tori. Buon ascolto. Oh, Renaissance, another day to tiptoe on the balustrade. Get over you like anything I ever could. It's easier. There's a mob at the door. I hear them. They're calling for my head. And the scaring ones. I'm still dreaming. Magnificent. It's awful high. I broke the stage. Shadows on the balcony. You're afraid to die. It's worse to leave. The best one. Come anticipato. ricordato, 2 settimane fa, nella puntata di Pasqua, il Comune di Napoli ha tentato, con una ordinanza, di vietare l'esposizione degli agnelli nelle vetrine delle macellerie. L'ordinanza parlava di animali macellati interi o in quarti, anche se spoiati, eviscerati o decapitati, e delle relative teste. Tali tagli resteranno, così recitava l'ordinanza, conservati nelle apposite celle frigorifere, in quanto l'interesse e la sensibilità nei confronti degli animali a cui dobbiamo tanto sono notevolmente aumentate. In rete, tra le persone animaliste e vegane, erano stati espressi punti di vista discordanti su questa ordinanza. Secondo alcune persone rappresentava una conquista perché evidenziava l'esistenza di un problema, di una contraddizione, mentre altri avevano interpretato questa ordinanza come una ipocrisia, un modo per rimuovere il senso di colpa, e avevano lamentato il fatto che, rimuovendo la prova tangibile della violenza verso gli animali, venivamo privati, come oppositori del carnismo, di un argomento utile per fare denuncia e controinformazione. A Socarni, il sindacato dei macellai ha utilizzato vari argomenti contro questa ordinanza. Si era arroccata sul valore della tradizione e dell'abitudine, relegando la questione etica a scelta strettamente personale, e non era mancato anche il solito argomento della salvaguardia dei posti di lavoro, un argomento usuratissimo, ma ancora buono, diciamo un argomento per tutte le stagioni. A sistemare la faccenda è stato il Tribunale Amministrativo della Campania, il TAR, che ha fermato l'ordinanza fino alla discussione in Camera di Consiglio fissata per martedì 24 aprile, quando la questione verrà appunto trattata in udienza. Non si è quindi ravveduto un carattere di urgenza e la Pasqua, almeno per i macellai, è stata salvata. Vorremmo poter dire la stessa cosa per la vita dei capretti e degli agnelli. Abbiamo chiesto un parere filosofico sulla questione della ordinanza napoletana al nostro pensatore di riferimento, il professor Luigi Lombardi Vallauri. Come ho detto commentando la carneficina di agnelli con cui ogni anno si festeggia la Pasqua cristiana, mi rendo conto che se fossi un allevatore o un macellaio mi sentirei gravemente danneggiato dal divieto di esporre le carni. Ma come cittadino responsabile non solo mi fa orrore e pena la sorte degli agnelli, trovo anche meritevole di tutela la sensibilità di chi, passando per strada, deve subire lo spettacolo dei corpi massacrati. Sul piano psicologico, una cosa è vedere prosciutti, salami, wurst asetticamente confezionati, un'altra cosa è vedere proprio l'animale intero o a pezzi nel suo sangue. Tra parentesi, io non so come l'esibizione possa incrementare le vendite, per me è controproducente. Sul piano giuridico non posso non richiamare il titolo 9 bis del libro secondo del Codice Penale dei delitti contro il sentimento per gli animali. So che alcuni animalisti lo criticano perché suona antropocentrico, ma gli articoli compresi nel titolo si occupano poi tutti direttamente dei danni agli animali. Quindi io penso, con due mie care amiche penaliste, Alessandra Valastro e Claudia Mazzucato, che la tutela del sentimento umano per gli animali non indebolisce, completa, si integra con la tutela diretta degli animali. Seguendo Alessandra, io intenderei la tutela del sentimento umano nel senso della natura plurioffensiva dei reati di maltrattamento. E seguendo Claudia, vorrei sostenere che la norma non tutela un sentimento sentimentale soggettivo, tutela un sentimento ontologicamente fondato, la relazione essenziale costitutiva tra l'uomo e l'animale, che sussiste anche per quelli che soggettivamente magari non amano gli animali. È vero che l'ordinanza comunale è una norma amministrativa, mentre il titolo 9 bis è una norma penale, ma tendo a pensare che un'interpretazione sistematica possa desumere da quel titolo e dal diritto animale nel suo insieme che il sentimento ontologicamente fondato per l'animale è un valore giuridico riconosciuto. In realtà, la tutela del sentimento così inteso dovrebbe portare prioritariamente ad abolire la carneficina pasquale. Quello che nuoce veramente agli agnelli è farli vivere solo per essere uccisi, non esporli una volta uccisi. Ma esporli uccisi ferisce ulteriormente il sentimento umano per gli animali e secondo me nuoce alla filosofia umana in generale, rendendola più indifferente, più assuefatta alla crudeltà, inclusa purtroppo anche la crudeltà interumana. Quindi l'ordinanza del Comune di Napoli non mi sembra assurda, come ha detto il presidente della Federmacellai, mi sembra, anche in base al titolo 9 bis, non priva di fondamento. Certo, preferirei un intervento responsabilizzante, sensibilizzante, convincente, piuttosto che una misura puramente punitiva come la sanzione pecuniaria. Vivi, lascia vivere è lo slogan che ispira da sempre la nostra rubrica di cucina, il pasto gentile. La ricetta di questa settimana, anch'essa 100% cruelty free, viene proposta come sempre dal tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Hai quel fuoco, hai quel sole, e le parole, come fare, cosa dire, devi solo farti capire, toro loco. Oggi abbiamo parlato di Ferdinand, un toro, simbolo di forza e virilità. Non a caso si dice forte come un toro. Ecco, ma avete mai pensato che questo animale così potente è erbivoro? Allora a questo allegorico animale voglio dedicare un piatto vegetale proteico della tradizione molisana, un piatto della cucina povera a base di grano, perché ricordiamoci che si può essere muscolosi anche bruciando l'erba. Gli ingredienti per 4 persone per la pia isernina sono 200 g di grano, 200 g di farina di ceci, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di lievito alimentare a scaglie, sale e pepe. Hai quel fuoco, hai quel sole, e le parole, come fare, cosa dire, devi solo farti capire. Lasciate il grano in ammollo per un giorno intero, scolatelo e sciacquate, per poi farlo cuocere 30 minuti in acqua salata. Nel caso non riusciate a trovare del grano da cuocere, potete utilizzare quello che solitamente si usa per realizzare la pastiera napoletana. Mentre il grano cuoce, sciogliete la farina di ceci con acqua, fino ad ottenere una crema liscia non troppo densa, e lasciatela riposare tutto il tempo della cottura del grano. Fate scolare bene il grano e unite l'olio extravergine e la crema di ceci. Aggiustate di sale e pepe e aggiungete anche il lievito alimentare. Versate il composto in una pirofila di coccio o di vetro che avrete spennellato con poco olio. Fate cuocere a 180 gradi per 40 minuti e servite ben caldo. In chiusura vi saluta la nostra redazione al completo, che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 429 della nostra trasmissione è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.